La realtà condivisa di Gianluca Nicoletti. Avrebbero dovuto fare ritorno in India entro il 23 marzo, allo scadere cioè del mese di permesso che era stato concesso loro dalla Corte Suprema di Nuova Delhi in occasione delle elezioni. Ma Salvatore Girone e Massimiliano Latorre non lo faranno. L'annuncio viene dal ministro degli esteri Giulio Terzi, che in una lunga nota spiega che l'Italia ha informato il governo indiano tramite l'ambasciatore a Nuova Delhi. Decisione presa in coordinamento con il presidente del Consiglio Monti e l'accordo di tutti i ministri coinvolti nella vicenda: esteri, difesa, giustizia. Sono felice di tornare al mio lavoro, al mio reparto e al reggimento San Marco. Sono un fuciliere, voglio continuare a fare il mio lavoro. Decisione che ha già scatenato reazioni in India. Diversi i media che sottolineano come l'Italia si fosse impegnata diversamente, mentre una fonte diplomatica all'ONU ribadisce che i due Marò devono essere processati in India secondo le leggi indiane. Io volevo esprimere personalmente un ringraziamento al Presidente della Repubblica, le istituzioni tutte, il popolo italiano tutto e tutti i network anche su Facebook che ci hanno sostenuto e dato forza e calore in questo lungo periodo. Eh sì, è una vicenda che ha attraversato le cronache dell'ultimo anno in maniera trasversale, è stata lambita in fase elettorale, ma appena, con molto imbarazzo, con molta reticenza, e nella giornata di ieri ha avuto una svolta improvvisa. La ricorderete tutti, l'avrete tutti presente, ma è importante parlarne questa mattina perché in qualche maniera ci sono due punti di vista abbastanza contrastanti su questa vicenda. Basta vedere i titoli dei giornali. Leggo sul Fatto Quotidiano: Terzi, che è il ministro degli esteri, rende piccola l'Italia, i due Marò resteranno qui, mentre in altri giornali, altri titoli sono: finalmente hanno fatto la scelta giusta di trattenere in Italia i due Marò. Ricordate la storia di Salvatore Girone e Massimiliano Latorre, erano i due fucilieri della Marina italiana che più di un anno fa erano stati accusati di aver ucciso due pescatori indiani. Era il 15 febbraio del 2012, i due fucilieri erano in servizio antipirateria su una nave commerciale, l'Henry Galaxy, sparano contro un peschereccio pensando che fosse una barca di pirati. Quella è un'area che non a caso faceva un'azione di antipirateria, che è infestata da pirati. Questo avviene in acqua internazionale, a largo di Kochi, che è uno stato meridionale, che è una zona nello stato meridionale del Kerala, che è a sud dell'India. Gli italiani, i due fucilieri, sostengono che hanno sparato colpi in avvertimento in aria, ma in realtà sono morti due pescatori indiani. Comincia una vicenda giuridica, vengono attirati fuori dalle acque internazionali, vengono arrestati dagli indiani, c'è tutta una vicenda piuttosto complicata. Il ministro Terzi il 28 febbraio 2012 va a Nuova Delhi, li visita, l'India dice che li deve processare lei, l'Italia dice no, dobbiamo processarli noi. In realtà, mentre va avanti questa vicenda, intanto i due fucilieri hanno la libertà su cauzione, però non si possono allontanare dall'India. Vengono trasferiti in un albergo e li aspettano. Hanno una prima licenza per Natale sotto cauzione, viene data una cifra consistente come cauzione, vengono, fanno le loro ferie natalizie e poi, da bravi soldati, seguono gli ordini e tornano in India. Tornano nuovamente in Italia per votare, ma quasi allo scadere di questa seconda licenza, a un certo punto il ministro degli esteri dice no, manco per niente, non è giusto che tornino in India, non è giusto che sia l'India a costituire un tribunale per giudicarli, adesso un tribunale internazionale a giudicare questa vicenda, e restano in Italia. Questa mattina cercheremo di capire la vicenda dal punto di vista del diritto internazionale, che è piuttosto complicata, ma cercheremo di capirlo, ma anche dal punto di vista emotivo. Come avete vissuto voi questa vicenda? Come avete visto due soldati italiani che svolgevano comunque una missione importante secondo una convenzione internazionale? Possono aver fatto un errore, possono averlo fatto, ma è giusto che comunque siano giudicati con tutte le garanzie che vengono garantite, che ci sono appunto nel nostro paese per situazioni simili. Si sa soltanto una versione, che è la versione dell'India, quindi molti da tempo già rivendicavano un'azione forte, no, ma i Marò devono rimanere in Italia, devono già fermarsi alla prima licenza, quella natalizia, oggi sono quelli contenti. Altri dicono no, in realtà abbiamo tradito un impegno, vedo su molti giornali pubblicati i blog indiani, dicono ah, ci avete tradito, la comunità dei pescatori del Kerala, questo stato meridionale dell'India, dicono: come, adesso ci avete ammazzato i nostri pescatori e poi non possiamo nemmeno giudicarvi. Non dimentichiamo che in India, proprio ieri, leggo la notizia, sono state impiccate le persone per reati efferati, siamo d'accordo, ma è uno stato dove non vanno tanto per il sottile. Come la pensate? 800 24 0024. Fausto Biloslavo, buongiorno. Buongiorno. Fausto Biloslavo è un collega del giornale. L'ho chiamato perché la prossima settimana uscirà un ebook intitolato I Due Marò, che lui ha scritto insieme a Riccardo Pellicetti. Sarà disponibile sul sito del giornale. Tu penso abbia seguito in maniera capillare questa vicenda. Tu penso, immagino, che sia dalla parte di quelli che si auspicavano sin dall'inizio una linea più dura nei confronti di questa vicenda piuttosto complicata. Sì, una linea più dura è molto diversa da quella che è stata adottata, nel senso che siamo noi che siamo stati traditi dagli indiani e non viceversa. Gli indiani sono alleati nella lotta ai pirati al largo della Somalia fino alle loro coste e hanno arrestato due fucilieri di marina italiani in servizio antipirateria e di fatto, come giustamente hai detto, non si è mai chiarito cosa realmente sia. Ci fu uno stratagemma al tempo, che in realtà furono tirati fuori dalle acque internazionali con una scusa e poi li hanno presi. Sì, cioè, ci fu un vero e proprio tranello, una trappola di cui tra l'altro la Guardia Costiera indiana, gli stessi militari indiani andavano anche orgogliosi, insomma, l'hanno pubblicizzata, nel senso che chiesero al comandante dell'Enrica Alexie: ma cosa è successo? Abbiamo trovato una barca di pirati, sono stati attaccati, venite a riconoscerli, insomma, ecco, quindi insomma, ci fu un stratagemma abbastanza, diciamo, chiaramente una fregatura nei nostri confronti, e noi cademmo in questo tranello, in questo stratagemma, anche perché appunto ribadisco che gli indiani sono alleati nella lotta contro la pirateria, e iniziò tutta la saga dei Marò. Ma quello che volevo dire era che secondo me e anche secondo il giornale, fin dall'inizio l'Italia avrebbe dovuto sbattere i pugni sul tavolo in maniera ben diversa, cioè non affidarsi alla cavillosa e tortuosa via giudiziaria legale, ma ribadire, come hanno ribadito appunto, che era illegale, che andava contro il diritto internazionale a fermare e arrestare i Marò, ma minacciare delle rappresaglie ben più serie, per esempio il ritiro delle nostre navi della flotta antipirateria al largo della Somalia. Non è stato fatto questo e ci siamo trovati in questa situazione. Ma allora non ci fu proprio una volontà politica di tenere la cosa in primo piano, anche se poi in fondo il ministro era lo stesso, mi sembra. Esatto, solo che c'è una grande differenza. Allora il governo muoveva i primi passi, adesso il governo è in scadenza e quindi ha dato questo colpo di reni. Meglio tardi che mai, per amor di Dio. Però indubbiamente ha infamia perpetrata dagli indiani nei nostri confronti. Abbiamo risposto un po' con infamia, nel senso che c'erano degli impegni ben precisi a restare in India, tra l'altro anche degli affidabili da parte del nostro ambasciatore. Però insomma, però questa volta non c'è stata cauzione, diciamo, non abbiamo rischiato soldi. Almeno non abbiamo perso soldi, sì, ecco, diciamo, questa è l'unica piccola soddisfazione, perché l'altra volta i soldi erano anche parecchi, insomma, quindi come sì, anche se erano rupie, ma erano tante. Erano, se non sbaglio, 800.000 euro, così questo genere. Ecco, vediamo di capire adesso, poi entreremo più nei particolari, perché la vicenda è di difficile comprensione, non può essere semplificata. Salvi Marò oppure dobbiamo mantenere la faccia, lasciamoli in India. Non dimentichiamo che in India, nella peggiore delle situazioni, cosa rischiavano? Ma in India erano accusati nello stato del Kerala di omicidio volontario, teoricamente potevano rischiare la pena di morte. Potevano essere impiccati per questo. Sì, ma molto teoricamente, insomma, che non sarebbe mai accaduto. Dobbiamo anche ricordare però che a un certo punto, il 18 gennaio, la Corte Suprema indiana, cioè la massima assise, il massimo tribunale indiano, ha sentenziato che lo stato del Kerala e le autorità del Kerala, quindi la polizia e così via, non avevano alcun diritto di eseguire l'arresto, il fermo e l'inchiesta nei confronti dei Marò, anche perché il fatto era successo non proprio in acque internazionali ma in acque contigue, ma il concetto insomma praticamente è lo stesso, e difatti sono stati trasferiti a Delhi. Cosa rimaneva ancora pendente, diciamo? La Corte Suprema voleva e stava istituendo una corte speciale, un tribunale, un ennesimo tribunale speciale, per decidere se la giurisdizione doveva essere dell'India oppure dell'Italia. E entriamo in questo punto, è toccato il punto, capire se uno Stato può decidere, sono io che istituisco il tribunale per giudicare una questione che ha diritto internazionale. Elena Sciso, buongiorno. Buongiorno. La professoressa Elena Sciso è ordinaria di diritto internazionale nella Facoltà di Scienze Politiche della LUS Guido Carli di Roma. È una vicenda un po' difficile da comprendere chi non abbia nozioni approfondite di diritto internazionale. Poi vediamo se lei, professoressa, riesce a farcela capire un po' meglio. Aveva veramente l'India diritto di dire siamo noi a istituire un tribunale per poterle giudicare? È una vicenda in effetti complessa, come lei dice. Diciamo che le questioni sono due. Una riguarda il luogo in cui è avvenuto l'incidente e l'altra riguarda la funzione esplicata dai nostri Marò. Quindi uno riguarda il fatto che questo incidente che ha causato la morte di due pescatori è avvenuta in acque, come diceva giustamente la persona che mi ha preceduto, in acque contigue, sì, fuori dal mare territoriale nel quale lo Stato costiero, in questo caso l'India, esercita dei poteri di giurisdizione tendenzialmente esclusiva. Al di fuori del mare territoriale, nelle acque contigue o anche nella zona economica esclusiva, lo Stato costiero esercita poteri di giurisdizione ma in ipotesi limitate, e il caso che è avvenuto non rientra in queste ipotesi limitate. Si applicano invece altre disposizioni della Convenzione di Montego Bay che stabiliscono tendenzialmente che in caso di incidente diciamo in alto mare, cioè al di fuori di zone che ricadono nella giurisdizione di un singolo Stato, sia competente lo Stato della bandiera, quindi in questo caso l'Italia. Prevedono anche altre forme di cooperazione, che cioè si avvii un'inchiesta e i due Stati coinvolti cooperino, cosa che non è stata fatta perché l'Italia ha potuto nominare solo dei periti nazionali ma non è stata associata formalmente all'inchiesta. Diciamo non c'è stato un interesse di collaborare da parte dell'India, si è voluto creare il caso. Assolutamente no, c'è stata l'affermazione della giurisdizione esclusiva indiana. Secondo punto a me pare forse anche più forte, e cioè il Marò si trovavano a bordo di questa nave commerciale per esercitare una funzione collegata alla repressione della pirateria internazionale. Nell'ambito di quelle forme di cooperazione per la repressione della pirateria, previste ancora una volta dalla Convenzione sul diritto del mare, cioè dell'articolo 100, e ribadito da risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Quindi che fosse una missione ufficiale, quella che noi internazionalisti chiamiamo attività organica, cioè nell'esercizio di funzioni dello Stato, questa è in dubbio, e il diritto internazionale stabilisce che in questi casi gli organi dello Stato, quindi i due Marò, beneficino dell'immunità dalla giurisdizione di un altro Stato. Mi scusi la semplificazione, professoressa, per far capire, perché questa vicenda, se volessi radicalizzarla e dire se sei di sinistra devi dire che i Marò devono tornare in India, se sei di destra devi dire i Marò vanno portati qua, morte gli indiani, perché io vedo riassunta in maniera un po' radicale questa vicenda. Ma da questo punto di vista, da quello che mi dice lei, mi sembra di capire che gli indiani e gli italiani in questa operazione erano alleati, è come se appartenessero alla stessa forza operativa, erano dei loro, non erano estranei. No, in realtà io non credo che ci sia stata una forma di cooperazione specifica in questa fascia di mare. Sicuramente c'è in altre zone di mare adiacenti a questa, ma in ogni caso la missione rientra senza dubbio nell'ambito di quella cooperazione internazionale più ampia che trova un cappello nella Convenzione di Montego Bay, cioè la Convenzione sul diritto del mare, e nelle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che sono risoluzioni obbligatorie per gli Stati parti delle Nazioni Unite. Sentiamo un attimo due ascoltatori. Paola, buongiorno. Sì, cominciamo a sentire il parere del pubblico, visto che come vedete, la questione non può essere semplificata. Bisogna trattarla nelle specifiche fattispecie per capirla bene. Paola, buongiorno. Buongiorno a lei, dottore. Io non ho alcun strumento per entrare nelle ragioni diplomatiche e giuridiche. Ho un semplice quotidiano arnese di come può evolvere la decisione di trattenere i due e la parola data. Qualcuno di quel paese presente da noi in una posizione sociale che potrebbe essere subordinata e non soddisfacente, preso, come si può dire, da orgoglio nazionale, si vendica su qualche anonimo italiano. Lui si sentirà un eroe, noi riempiremo giornali e per qualche giorno, ora, avremo di che parlare, però, come ha detto lei, l'emotivo risentimento lievita a dismisura come il nostro disagio. Tutto qua, dottore. Cioè lei ha paura di repressioni, diciamo di atti sconsiderati, terroristici su cittadini italiani in India, dato dal clima generale. Non ho in questo momento un indicatore per capire se realmente in India gliene porta veramente in maniera così diffusa. Presenti qua in Italia da qualcuno che sente per orgoglio nazionale, sente che e magari perché vive il disagio di una posizione economica o sociale non... Cioè la paura di un indiano che in Italia ha un semaforo, dia una bacchettata in testa a uno dicendo per ritorsione, ma è una sua ipotesi. Andrea, buongiorno. Buongiorno, sì. Dunque, lasciando perdere tutte le implicazioni di diritto internazionale che mi interessano molto poco. Però sono fondamentali in questo caso. No, io credo che fondamentale sia il fatto che due pescatori che andavano a lavorare innocenti sono stati ammazzati. E noi, come al solito, facciamo le figure barbine di essere forti con i poveracci, perché con gli indiani ci siamo riportati a casa i nostri due marò. Con gli americani che hanno abbattuto la funivia del Cermis qualche 10-12 anni fa, li abbiamo lasciati andare. E, siamo la solita Italietta e ci scommetto che i due marò l'hanno già detto, tra l'altro vogliono tornare a lavorare. Io non so se sia il caso di ridargli un'arma in mano. Sì, però scusi Lorenzo, io prendo il suo punto di vista perché è rappresentativo di una fetta d'Italia che così la pensa. Però le persone vanno giudicate in tutte le forme, con tutte le garanzie possibili. Delle persone fanno un servizio di antipirateria in acque già abbastanza difficili, possono aver fatto anche un errore, ma che abbiano volontariamente ucciso le persone, io avrei... Io non ho detto che hanno ucciso volontariamente delle persone, però esiste l'omicidio anche colposo, se vogliamo. Sì, non so, ma non possiamo giudicarlo noi a distanza, vede come è complicato. D'accordo, però sta di fatto che due indiani pescatori non sono tornati alle loro famiglie. Sì. Se permette, abbiamo tutti una famiglia e tutti lavoriamo. Io francamente non vorrei che un pistolero per la strada, io adesso sono per strada, non vorrei che mi sparasse e poi andatelo a raccontare a mio figlio. O portategli il pane, più che altro, forse ne avrà più bisogno. Questo, diciamo, è un approccio puramente emotivo. Professoressa Renascisio, visto che l'ha sollevata l'ascoltatore, stavo per domandarglielo anch'io. Quali sono le affinità con la vicenda del Cernis rispetto a questo? Io credo che appunto il diritto internazionale è un po' utile, insomma, perlomeno per fissare la scriminante. No, per fortuna le persone non vengono giudicate soltanto sulle spinte emotive. Che non lo sono. Allora diciamo che gli stati di solito individuano delle forme per definire l'esercizio della giurisdizione in casi in cui ci può essere un concorso di pretesa di esercizio della giurisdizione. Il caso del Cernis è profondamente diverso, perché si trattava di militari che appartenevano ad una che lavoravano in una base NATO, una base statunitense, però nell'ambito dell'Alleanza Atlantica della NATO, e al riguardo esiste un trattato internazionale, l'accordo di Londra del 1951. Era decollato da Aviano, era decollato l'aereo, mi sembra. Sì. Non ho capito. Era decollato dalla base di Aviano l'aereo responsabile della vicenda del Cernis. Della vicenda del Cernis, era un'esercitazione militare dei militari statunitensi che facevano parte di questa base, e lì c'è però, ripeto, questo trattato internazionale che disciplina espressamente l'esercizio della giurisdizione, che dice che quando questi incidenti avvengono nell'ambito di esercitazioni, quindi ancora una volta nell'ambito di attività ufficiali, la giurisdizione sia quella dello Stato nazionale del militare. Quindi l'Italia non ha dovuto che riconoscere l'applicazione di questo accordo alla fattispecie. Quindi quella vicenda, mi faccio capire, professoressa, che ancora nell'opinione pubblica viene considerata come un grande sopruso da noi subito, in realtà si è svolta secondo la regolarità del diritto internazionale? Secondo il trattato? Sì. Secondo il trattato di Londra del 1951, sì. Quindi sfatiamo questa idea che abbiamo subito un torto, quindi anche noi possiamo avvalerci di questa sorta di legge fatta in casa. Melog, la realtà condivisa. Stiamo parlando della vicenda dei due marò italiani. Mi arrivano moltissimi SMS che dicono: non facciamo confusione con i giochi di guerra degli americani che vogliono passare sotto i cavi di una funivia con questa vicenda. Non facciamo confusione, è una vicenda che abbiamo tirato in ballo semplicemente per ragionare su quelli che sono i trattati che regolano molte volte il diritto internazionale. In quel caso, certo, è un'altra vicenda, erano militari americani che facevano una sorta di scommessa a chi passava più vicino ai fili della ferrovia passando sotto il ponte, e morirono 19 persone in questo gioco. Però secondo il trattato di Londra, come, che regolava questo tipo di vicenda, come ci ha detto la professoressa Elena Sciso, era giusto che fossero stati i militari, gli americani, a processarli. Può piacerci o no quello che è stato il verdetto, possiamo sentirci o no violati nel nostro orgoglio nazionale, però se la legge dice questo, così deve essere. La stessa cosa vale per la vicenda dei due fucilieri della Marina italiana. Sentiamo velocemente due ascoltatori, poi continuiamo con i nostri ospiti. Carlo, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Niente, io volevo dire una cosa molto semplice, anche banale, probabilmente. Nelle cose, diciamo, che ci investono, ci facciamo guidare spesso da situazioni che hanno poco a che vedere col buon senso. Io dico una cosa di questo tipo: è successo un fatto. Al di là di tutto, noi siamo stati, diciamo così, presi tra virgolette in trappola dagli indiani, perché invece di agire in una certa maniera, loro ci hanno attirati in porto, dopodiché hanno arrestato i marò. Mm-hmm. Allora, il giudizio va dato o in sede internazionale o in Italia. Questo io penso sia la cosa che avrebbe dovuto essere fatta. Non è andata così, noi abbiamo seguito i nostri marò diciamo molto da vicino, però cosa è successo? Che pagando una cauzione loro sono stati dal governo indiano mandati in Italia, perché in parte si sono affidati di noi e in parte la cauzione. Sì, ma qual è il suo punto? Questo abbiamo già detto, ha riassunto, l'ho detto finora. Il suo punto di vista qual è? Il mio punto di vista è questo: se noi dovevamo prendere una posizione, dovevamo prenderla da subito o probabilmente immediatamente dopo che sono venuti in Italia pagando la cauzione, avremmo dovuto dire: va bene, l'abbiamo dovuta pagare perché comunque era giusto che tornassero, adesso non. Lei diceva per le vacanze di Natale bisogna prendere questa decisione, ma come sì, ci ha detto che... sì, ma come ci ha detto già il collega Biloslavo, che adesso sentiremo, che ha scritto un Istan Book su questa vicenda che uscirà nel sito del giornale, allora nessuno si prende la responsabilità politica, questo è il fatto. Oggi è stata fatta la stessa cosa perché c'è un governo ormai con le valigie in mano e quindi forse costa meno prendere questa responsabilità. Però voglio tornare un attimo velocemente, so che deve lasciarsi, con la professoressa Elena Sciso, che ricordo ordinario di diritto internazionale nella facoltà di scienze politiche della Luis Guido Carli di Roma. A questo punto cosa succede, professoressa? L'Italia però deve prendersi un impegno, non è che dice li teniamo e tutto procede come prima, dovrà processarli. No, io credo che insomma il comportamento dell'Italia, stando alle dichiarazioni del ministro Terzi, è in linea con gli obblighi internazionali del paese, perché Terzi non ha detto sono qui, ce li teniamo, li processiamo noi. Terzi ha detto correttamente che a questo punto si è aperta una controversia tra l'Italia e l'India a motivo della titolarità dell'esercizio della giurisdizione. E per non sbagliare, per adesso li teniamo qua perché non ci fidiamo. Sì, ecco. Sì, però Terzi ha offerto immediatamente all'India di avviare dei negoziati per risolvere questa controversia secondo quello che stabilisce la Convenzione sul diritto del mare, di cui sono parti sia l'Italia che l'India. Una domanda, professoressa, poteva essere fatto a Natale la stessa cosa? Potrebbe essere stata fatta, mi scusi? Poteva essere fatta anche a Natale, con la licenza natalizia, la stessa operazione. Ma senta, questa veramente è una risposta che non compete all'internazionalista, perché veramente richiede una risposta politica, nel senso che l'Italia ha mostrato sicuramente buona volontà. E direi no, dicevo, ma c'erano le condizioni, chiaro, ma le condizioni c'erano, potevano farlo anche allora. Cioè... No, l'Italia in quel momento ha voluto dare credito ancora una volta alla controparte, perché si riteneva che la Corte Suprema, che la sentenza della Corte Suprema avrebbe deciso sulla giurisdizione. Questo lo sentimi dire, c'era qualcosa che doveva accadere che non è accaduto. Assolutamente, che non è accaduto, ha affermato che il Kerala non è competente in materia, però ha anche rimbalzato la questione della giurisdizione ad un tribunale speciale che finora non ha costituito, poi si è detto che in questi giorni aveva firmato per la costituzione di un tribunale speciale, che però di fatto ad oggi non risulta ancora costituito. Semplifico la mia domanda, abbiamo fatto bene a fidarci allora perché abbiamo dimostrato che siamo in buona fede, oggi non è più il caso di mostrare una fiducia in chi non merita fiducia, questa è la sintesi. Sì, se mi consente di aggiungere soltanto un paio di riflessioni. Uno, il fatto che questi Marò siano attualmente in Italia non significa, per quello che ho detto, che rimarranno impuniti o che comunque l'Italia rinuncia a confrontarsi con l'altro Stato sul punto dell'esercizio della giurisdizione. Noi chiediamo che la controversia venga risolta secondo quegli strumenti che il diritto internazionale, in particolar modo la Convenzione di Montego Bay, mette a disposizione degli stati. Quindi arbitrato internazionale, più difficile mi sembra il ricorso alla Corte Internazionale di Giustizia per una serie di considerazioni, ma non sto ad annoiarvi, insomma, però mi sembra difficile il ricorso alla Corte Internazionale di Giustizia, più probabile il ricorso all'arbitrato. I Marò non andranno sicuramente impuniti perché sono stati già aperti in Italia due procedimenti, due indagini, una da parte del Tribunale Militare e una da parte del Tribunale Civile di Roma per una serie di ipotesi di reato. Quindi il loro status in questo momento cosa è? Non sono, diciamo, agli arresti come erano in India? No, assolutamente no, perché siamo in una fase preliminare, non è stato ancora formalmente aperto un procedimento a carico, si stanno raccogliendo gli elementi per capire insomma come sono andate le cose e quale può essere l'ipotesi di reato, può essere quella dell'abordaggio, può essere quella di violazione delle regole di ingaggio, insomma sono cose che sono... Siamo tutto un problema processuale, le prove balistiche, certo. Se non abbiamo in mano questi dati è anche un po' difficile arrivare a una conclusione. Certo. La ringrazio comunque professoressa, grazie molto. Torniamo a Fausto Biloslavo che abbiamo sentito all'inizio, ricordo che uscirà un ebook intitolato I Due Marò, scritto insieme a Riccardo Pellicetti. Ti sei fatto un'idea rispetto a quello che ha detto la professoressa sulla correttezza di quello che è stato fatto in questo momento, ulteriore rispetto a quella che già avevi? Sì, io mi sono fatto anche un'idea che secondo me sono stati un po' anche gli indiani in via indiretta a suggerirci, fra virgolette, questa soluzione. C'è anche questa ipotesi che fanno molti, ci siamo messi d'accordo, noi facciamo la figura di... non è che ci siamo messi d'accordo per iscritto o via telefono, insomma, però io ricordo che il 18 gennaio, quando la Corte Suprema di Delhi ha emesso una lunga sentenza che giudicava, come ha detto la professoressa Carale, incompetente, cioè come dire, per un anno gli hanno tenuti l'altro, con cui tre mesi in galera e non dovevano farlo, no? Poi uno potrebbe chiedere adesso chi paga quest'anno, no? Cioè la responsabilità di quest'anno, però la Corte Suprema, i giudici della Corte Suprema, tra l'altro il Presidente della Corte Suprema che aveva in mano questa causa, ha scritto nella sentenza che comunque l'India e l'Italia potrebbero anche risolvere la questione attraverso questa Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e che si chiama UNCLOS, cioè quindi ci ha indicato quasi la soluzione e l'Italia, che già ci pensava a Natale, ma a Natale erano ancora in Kerala, c'era la cauzione e c'erano, come dire, una pressione maggiore sugli affidavit, sull'impegno, sull'onore, eccetera, quindi secondo me hanno fatto bene a tornare. Poi sotto Natale nessuno si voleva prendere questa rogna, esatto, nessuno voleva prendersi sta patata bollente, adesso giustamente, perché ricordiamoci che nel comunicato di ieri della Farnesina del ministro Terzi è stato specificato che l'Italia ha subito chiesto all'India di trovare una soluzione diplomatica. L'India non ha risposto, una soluzione diplomatica dopo la svolta del fatto che i Marò sono andati a Delhi e sono stati sgravati da questa spada di Damocle dello Stato del Kerala. Non ha risposto e quindi l'Italia, come indicato dai giudici supremi indiani, ha scelto la via dell'arbitrato internazionale, della convenzione UNCLOS e così via. Non a caso il ministro degli esteri indiano, che tra l'altro era l'ex ministro della giustizia fino all'altro giorno, fino all'altro anno, insomma per intenderci, e ha gettato acqua sul fuoco, ha detto beh, leggiamo, vediamo la lettera dell'Italia, dopodiché insomma reagiremo, vediamo, insomma ecco, adesso diventa tutto un problema politico. Anche per gli indiani non era una gestione facilissima, passato esatto, l'impatto, esatto. Non credo che avessero avuto grandi vantaggi demagogici dire li processiamo in India, poi il furor di popolo avrebbe voluto chissà che e non potevano naturalmente arrivare a delle forme drastiche, certo, di giustizia, ma certo, su questa vicenda che oggi su qualche giornale viene ventilata, che ci siano dietro anche degli scambi, carte Finmeccanica contro Marò, qualcosa del genere, trovi che siano scenari plausibili? Sì, oppure? No, mi sembra che sia molto una dietrologia tipica italiana, insomma tipico mediatico italiana, non penso che ci siano collegamenti diretti, penso piuttosto che dall'altra parte della barricata, e difatti si vede in queste ore, il primo ministro indiano ha detto che è inaccettabile e cominciano le solite reazioni, anche là le solite dietrologie, Sonia Gandhi che è la Lady di Ferro indiana, no? Una politica in vista, che controlla il partito maggioritario del congresso e così via, di origini italiane, di origine venete, e ecco Sonia Gandhi, l'italiana come la chiamano in India, ha aiutato i Marò. Anche questo secondo me non è assolutamente vero, anzi Sonia Gandhi se ne sta ben lontana da questo. Anche perché nella prima fase c'erano delle elezioni in corso, quindi devono stare tutti molto attenti a sbilanciarsi su questa vicenda. Esattamente, non è un caso che adesso l'opposizione in India sta cavalcando la tigre del tradimento dell'Italia e i Marò che non tornano a Delhi. Non dimentichiamoci, abbiamo 400 aziende in India, però non credo in questo momento, anche se qualcuno questa mattina lo dice, abbiano a rischio i loro affari per la vicenda dei due Marò. Alla fine pecunia non olet, chi ha soddisfacenti transazioni commerciali non credo che le metta in crisi semplicemente perché in questa sorta di accordo tacito, come abbiamo capito, i due Marò sono tornati in Italia invece che rimanere in un albergo a Nuova Delhi. Melog, la realtà condivisa. Velocemente qualche ascoltatore sulla vicenda stiamo trattando questa mattina, la storia dei due fucilieri della Marina Italiana legati a una vicenda di diritto internazionale. Sebastiano, buongiorno. Buongiorno. Sì. Nicoletti, allora io lavoro in India da un po' di anni e commercio e quindi conosco abbastanza bene, credo, sia la società che anche la comunità indiana con l'Italia, quindi partendo dalla... Stava in India anche in questo periodo, Sebastiano? Sono stato, sì, sicuramente, nelle ultime settimane. E che impressione ha avuto? Com'era vista la vicenda all'interno? Poco riportata sui giornali, cioè con un profilo sicuramente non alto. Cioè l'India è grande, di problemi ne ha tanti, certo, sì. Quotidianamente hanno scandali ben più grossi di questi. E io ritengo che sia una cosa più semmai politica, in quanto il fronte che adesso l'opposizione nazionalista è abbastanza importante, ha sicuramente una frangia anche estremista e violenta purtroppo, però non credo che per gli italiani, come diceva l'ascoltatrice prima, tra virgolette, ci sia un pericolo, eccetera. Sì. E ritengo che sia invece dal punto di vista appunto di un lavoro di diplomazia. Forse più che questa vicenda, anzi sicuramente più che questa vicenda, per il commercio, per noi che operiamo in India e commerciamo con l'India, ha avuto influenza la vicenda Augusta. Augusta e degli elicotteri. Quello lì sì che potrebbe avere delle influenze dal punto di vista commerciale. Lei che settore si muove? Tessile. Tessile. Sì, molto importante sia in India che anche l'interscambio del tessile. Quindi lei è convinto, come dicevo io, che non sanno certo la vicenda dei due fucilieri a compromettere gli accordi commerciali fra aziende italiane e India? I denari e la comunità, diciamo, manageriale indiana è molto, molto superiore a queste cose qua. A livello politico sicuramente nella parte diciamo di dibattito politico, magari anche localmente in Kerala, che è uno stato con maggioranza, l'unico stato con maggioranza, se non sbaglio, di sinistra, addirittura comunista, il partito comunista è maggioritario là, con grossi vantaggi per la popolazione dal punto di vista della education, dal punto di vista dell'istruzione, però chiaramente strumentalizza a volte alcuni fatti del genere. Grazie Sebastiano. Luciano. Sono Digne? Sì, è un ex ufficiale di Marina Mercantile. Sono un cavaliere lungo corso della Marina Mercantile. Senta, le volevo dire questo, io ho navigato in quelle acque, quindi conosco molto bene quello che succede da quelle parti nell'Oceano Indiano. Quello che spesso ci capitava è che navigando, venendo fuori dal Mar Rosso e navigando in quella in direzione dell'India, quindi ci capitava spesso dei pescatori che ci facevano dei segni in mare, in alto mare, facevano dei segni e noi avevamo l'obbligo di accostare, di vedere cosa fosse successo, cosa c'era, perché quel richiamo. Beh, niente, andavamo lì e loro ci dicevano: guardate che ci abbiamo delle reti, per cui cercate di passare più a largo, altrimenti con la prora, con l'elica poi distruggete tutto questo, queste reti che noi abbiamo. E noi facevamo una variazione di rotta e ce ne andavamo, ma questo succedeva con una certa frequenza. Quindi io penso che in India sia successa una cosa del genere, anche perché i pirati dalla Somalia non si spostano a quelle latitudini dell'India, siamo a 1100-1150 miglia di distanza dalla costa, ci vogliono 3 giorni di navigazione per spostare una nave dall'India alla costa della... Quindi lei, scusi, avvalerebbe la tesi che non dovevano sparare se hanno sparato? No, non dovevano sparare assolutamente, hanno fatto qualche cosa che non dovevano fare, insomma, non... Cioè, uno che passa vicino casa, poi il problema dell'acqua internazionale, ma uno che passa vicino casa sa, gli sparo perché penso che sia un ladro. Però sa, non conoscendo la, io non voglio né difendere né non conoscendo la vicenda nello specifico, non so cosa dire. Lei dice, per la sua esperienza, spesso che ho navigato in quelle acque ci accostavano dei pescatori facendoci segno che non dovevamo passargli per rompergli le reti, ecco, non stare attenti a non tranciare le reti. A volte si accostavano e ci davano pure del pesce, quindi diciamo che era un modo così di che in mare c'è questa cortesia, c'è questo rispetto per quelli che... Lei da quanti anni non naviga più in quelle acque, comandante? Io in quelle acque sono 15 anni che non navigo. Sono cambiate un po' le cose in questi ultimi 15 anni. Va bene, ma le seguo queste cose, io ho dei colleghi che ancora navigano da quelle parti, ho dei parenti anche. Ma quello che le volevo dire è che poi la distanza, quelle latitudini, non vanno i cosi, non vanno i somali, i pirati somali a guardare le navi, addirittura sono acque tranquille, c'è qualche cosa un po' nello Sri Lanka, qualche cosa. Ma allora sono tranquille perché secondo lei sono presidiate da queste forze antipirateria? Perché c'è questa realtà, ma nelle coste dell'Africa, nelle coste somale, non nelle coste indiane. Non si spinge fino alle coste del sud dell'India. Ma con 4 giorni di navigazione, secondo lei ci sono dei sistemi di allarme che le navi sono dotate, per cui basta che lanciano dei messaggi, vengono subito intercettate dalle forze che intervengono, le forze militari che intervengono. Io non la vedo, io penso che loro abbiano fatto qualche cosa oltre quello che potevano fare, perché una barchetta piccola come quella, con 3 persone a bordo, con una nave di 80.000 tonnellate, addirittura senza carico, senza niente, che è alta 15 metri, non so che cosa potesse fare quella barca. Vabbè, questa è l'opinione di Luciano, un nostro ascoltatore, ex ufficiale di Marina Mercantile. Fausto Biloslavo, indipendentemente se poi abbiano fatto un atto che non devono fare o meno, è giusto che abbiano tutte le garanzie processuali che debba avere una persona? Sì, sicuramente. Io tra l'altro non si è mai voluti entrare nel merito di cosa è accaduto, un'idea me la sono fatta perché... E qual è la tua idea? Noi abbiamo pubblicato il rapporto a caldo scritto da Massimiliano Latorre, uno dei due Marò, in tempi non sospetti, cioè quando non era ancora scattata la trappola indiana, quando non pensavano... E qual era il tuo punto di vista? La mia idea è abbastanza semplice, loro hanno sparato prima in aria e poi in acqua. Noi purtroppo non abbiamo il munizionamento dei soldati inglesi che insomma con i pirati insomma c'hanno a che fare da qualche centinaio di anni, e abbiamo un munizionamento che può rimbalzare sparare su uno specchio d'acqua, soprattutto se sparato dall'alto, cioè dall'alto di una nave come la petroliera Alexia che loro difendevano, può rimbalzare e può aver colpito il peschereccio. Ma è tutto ancora da chiarire, è un processo vero e proprio, perché quei pescatori, per esempio, ci sono altre ipotesi che dicono che avevano avuto un conflitto a fuoco, un incidente con la marina dello Sri Lanka, che ne ha già ammazzati negli ultimi anni 500 di pescatori indiani, proprio per la questione, insomma, di dove pescano e dove gettano le reti e così via. Comunque la mia idea è che al massimo potrebbe essere una sorta di omicidio, ovviamente colposo, certo non volevano sparare a figuriamoci, certo, pescatori indiani. Detto questo, mi sembra che la conclusione più ovvia che possiamo fare a fine di questa trasmissione è che alla fine, al di là degli aspetti emotivi che sicuramente coprono questa vicenda, al di là delle connotazioni politiche che possono dare un'accelerazione rispetto all'uno o all'altro punto di vista, la cosa più giusta è che adesso se ne occupi chi giuridicamente deve occuparsi di questa vicenda, al di là di quello che poi sarà stato il fatto in sé, che giudicherà il tribunale una volta avremo capito quale sarà il tribunale. Grazie Biloslavo, grazie agli ascoltatori, ci sentiamo domani.